strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Ripartenza dell'automotive, arrivano le istruzioni per l'uso. Acea, l'Associazione Europea dei Produttori, e CLEPA, l'Associazione Europea dei Fornitori, hanno infatti adottato congiuntamente un codice di condotta delle attività per sostenere un riavvio rapido e regolare dell'industria automobilistica a seguito della crisi. Il codice, ritenuto necessario per coordinare l'azione di diversi attori della filiera, contiene capitoli sulla salute e sicurezza sul luogo del lavoro, sulla comunicazione tempestiva e sulle regole contrattuali. L'emergenza da Covid-19 va stabilizzandosi e diverse realtà dell'automotive ripartono cautamente con le loro attività. È il caso di Bridgestone, che ha deciso di riavviare gradualmente la produzione nella maggior parte dei suoi impianti produttivi in risposta alla domanda di mercato e alle esigenze dei clienti. Da questa settimana si sono rimessi in moto gli stabilimenti in Spagna e Russia. E anche Audi riavvia alcune sue attività. La casa dei quattro anelli ha ripreso la produzione nella catena di montaggio di uno stabilimento in Ungheria, facendo tornare al lavoro circa 100 dipendenti, e punta a riprendere le attività di una seconda linea di assemblaggio nei prossimi giorni. Stando al piano del gruppo, la produzione dei veicoli in Ungheria dovrebbe ricominciare con un programma di turnazioni nell'ultima settimana di aprile ed essere quindi poi sincronizzata con quella di casa madre Volkswagen. Motus è l'associazione italiana che riunisce e rappresenta il mondo della mobilità elettrica, lancia un appello al governo: non si fermi l'avanzata tecnologica. L'emergenza Covid-19 sta creando uno sconvolgimento radicale nell'intera filiera, ma accanto alle necessarie misure per salvare le imprese e accrescerne la competitività, le istituzioni non devono frenare la transizione verso l'elettrico. Una posizione che è stata ripresa anche da alcune case costruttrici, e noi ne parleremo ad esempio nella seconda parte di Strade e Motori con il direttore della comunicazione di Renault, Francesco Fontana Giusti. E sempre a proposito di elettrico, anche Enel X ha deciso di mettere le sue competenze al servizio della lotta contro il coronavirus. Ascoltiamo la scheda. In sinergia con Air Technologies, azienda impegnata in servizi di dati geografici e mappatura, il gruppo Enel ha lanciato City Analytics, mappa di mobilità, una soluzione Big Data che stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Il servizio fornisce una mappatura dei macroflussi di mobilità su vari livelli territoriali, un sistema di fattori incrociati che permette di individuare quante persone si muovono in questa delicata fase di emergenza sanitaria, da dove, verso dove e con che frequenza. I dati sono a disposizione fino al 31 maggio delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, degli enti interessati e della Protezione Civile, e persino dei cittadini, sui portali dedicati di Enel. Queste erano le iniziative di Enel X per venire incontro a quanti stanno lavorando sul fronte dell'emergenza. Ma cambiamo decisamente argomento, parliamo sempre di auto ovviamente, e per quanti debbono continuare ad utilizzare l'auto, e ovviamente ne sono autorizzati, ma anche per i semplici possessori, ci sono state nelle ultime settimane davvero tante novità, dall'RC auto alle tasse automobilistiche ai pagamenti delle multe. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione in compagnia del nostro ospite, che è Maurizio Caprino, collega giornalista del Sole 24 Ore, ovviamente profondo conoscitore della materia. Buonasera Maurizio, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, cominciamo proprio dall'RC auto. Allora, dobbiamo distinguere fra la legge e le iniziative prossime venture. La legge in vigore dice semplicemente che i famosi 15 giorni di tolleranza per i quali viene conservata la validità di una polizza scaduta, in realtà diventano 30. questo dice la legge in vigore. Attenzione però che chi sfrutta poi questi 30 giorni non può avere la risarcita, viene beccato per strada con la polizza comunque scaduta, non può invocare la riduzione a un quarto se poi riattiva la polizza entro 30 giorni, quindi si becca la sanzione piena. Fin qui ripeto la legge, poi c'è una possibilità che viene data dal Cura Italia, dal decreto legge Cura Italia, che viene convertito in legge in questi giorni, dovrebbe essere convertito con un emendamento che consente fino al 31 luglio di chiedere la sospensione gratuita della polizza. Novità anche sul fronte del bollo auto, perché sono diverse le regioni che hanno deciso di posticipare le date di scadenza del bollo auto, ascoltiamo quali in questa scheda. Sono diverse le regioni che con proprie delibere di giunta hanno disposto la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale per meglio fronteggiare il momento di difficoltà che i cittadini stanno vivendo a causa dell'emergenza in corso. La Regione Lazio ha sospeso i termini di versamento della tassa automobilistica in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. È previsto che il relativo pagamento debba essere effettuato entro il 30 giugno. La Toscana ha stabilito che le tasse automobilistiche di marzo, aprile e maggio, da versarsi ordinariamente entro il 1 giugno, possono essere versate entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni e interessi. In Umbria è stata disposta la sospensione della tassa per il periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile e anche in questo caso il pagamento è rimandato al 30 giugno. La Campania ha sospeso i termini di versamento della tassa automobilistica in scadenza tra il 24 marzo e il 31 maggio, prevedendone il versamento entro il 30 giugno. Anche in Piemonte il pagamento della tassa dovuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 slitta al 30 giugno. Lo stesso termine indicato anche dalla Regione Emilia-Romagna per i versamenti dal 1 marzo al 30 aprile. Nelle Marche i termini sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno, con la possibilità di pagare entro il 31 luglio. La Lombardia invece sospende a partire dall'8 marzo e fino al 31 maggio, con pagamento entro il 30 giugno. Bene, rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Maurizio, ci sono diverse regioni che hanno optato per questo slittamento, ma in realtà ci si attende anche una risposta legislativa a questo problema. Hanno subito premuto sul governo affinché decidesse con una legge che ovviamente andasse a ripianare la mancanza di gettito che ci fosse a seguito di questa sospensione dei pagamenti. Questo ripiano non è ancora arrivato, ma si dice che possa arrivare in provvedimenti prossimi, quindi anche qui teniamo gli occhi aperti. Certo. Capitolo multe, ovviamente speriamo che ne abbiano fatte poche in questo periodo, a me è capitato di prenderla comunque Maurizio e quindi poi ho bisogno di una tua consulenza, ma dicevamo anche su quello però c'è qualche slittamento. Dunque, il slittamento è un blocco, cioè tutti i procedimenti che erano in piedi alla data del 23 febbraio, quindi la data del caso Codogno fondamentalmente, rimangono congelati fino al prossimo 15 maggio, almeno fino al prossimo 15 maggio, salvo ulteriori rinvii. Quindi i famosi termini dei 90 giorni per notificarle, i famosi termini dei 60 giorni per o 30 giorni, secondo che si vada dal prefetto, dal giudice di pace, insomma, per fare ricorso, vengono tutti bloccati, il cronometro è bloccato fino al 15 di maggio. Attenzione che è importante anche per chi deve pagare, c'è un blocco anche per chi deve pagare e soprattutto c'è la possibilità straordinaria di avere lo sconto del 30% se si paga in 30 giorni dalla notifica. Normalmente sapete che è di 5 giorni normalmente. Esatto, perfetto. Esatto. Ci sono delle novità anche sul fronte delle revisioni e dei collaudi, ovviamente per quei veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione e collaudi in questo periodo. Quali sono queste novità? La revisione viene posticipata al 31 di ottobre, diciamo si può circolare senza problemi fino al 31 di ottobre, poi ci sono altre proroghe per chi per esempio deve cambiare le bombole. Queste operazioni straordinarie sono regolate da decreti ministeriali, un intreccio piuttosto complicato. Consiglio comunque di guardare sul portale dell'automobilista. Il portale dell'automobilista quindi è una fonte di informazione in questo momento per tutti quanti debbono fare delle revisioni o dei collaudi, e anche per chi ha un'auto a metano e GPL che ha le bombole appunto in scadenza. Sono arrivate in realtà qualche settimana fa, quindi in questo momento le ricordiamo soltanto, poi una serie di slittamenti, una serie di rinnovi di scadenze per quanto riguarda le patenti e i passaggi di proprietà. Quali sono queste scadenze? Per tutte le patenti scadute fra il 31 gennaio e il 31 agosto, la data ultima è il 31 agosto, si è in regola comunque fino al 31 agosto. Quindi attenzione, questo vuol dire che chi aveva la patente scaduta prima del 31 gennaio non è comunque in regola. Spesso si viene rimessi in termini, come si dice in gergo giuridico, in questo caso non è accaduto, quindi non se ne può approfittare. Può stare tranquillo anche chi aveva una scadenza legata alla visita della commissione in commissione medica locale, anche lì secondo i casi può stare tranquillo fino al 30 giugno o fino al 15 giugno, c'è un complicato balletto di decreti ministeriali. Ecco Maurizio, c'è poi un problema legato alle gomme, agli pneumatici, perché ci doveva essere il cambio per chi aveva gli pneumatici invernali, ovviamente a gommisti chiusi o quasi tutti chiusi, cosa succede? Non succede nulla, nel senso che già normalmente è legale circolare con le gomme invernali anche in piena estate, a condizione che il codice di velocità delle gomme invernali sia pari a quello di quelle estive. Se invece è un codice di velocità inferiore, già con una circolare di anni fa, la motorizzazione ha chiarito che si ha comunque un mese di tempo. Questo vuol dire che insomma, la stagione delle gomme invernali finisce il 15 di aprile, c'è tempo fino al 15 di maggio per mettere quelle estive. Bene, queste erano tutte le proroghe delle scadenze che riguardavano il mondo automotive, dall'RC auto alle tasse automobilistiche, alle patenti, alle multe. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Maurizio Caprino, collega giornalista del Sole 24 Ore, che ci ha fatto un po' questo riassunto della situazione attuale. Ovviamente continueremo a monitorare l'evoluzione della situazione, anche perché, come ha ricordato Caprino, ci sono dei provvedimenti legislativi che potrebbero nelle prossime settimane modificare ancora una volta questi termini. Intanto grazie Maurizio, noi ci fermiamo con la prima parte di Strade e Motori, torneremo tra poco con la seconda parte, parleremo di Renault e cercheremo di capire come il gruppo francese sta affrontando questa difficile situazione. A tra poco. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Beh, un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento parliamo in questo spazio di Renault, cerchiamo di capire come si sta organizzando questa casa ai tempi del coronavirus, per fare anche un po' il punto su quelle che saranno le novità e quello che sarà il futuro di questo settore da qui ai prossimi mesi. E per tutto questo è il nostro ospite questa sera Francesco Fontana Giusti, che di Renault è il responsabile della comunicazione. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Cominciamo con il dato. Gli ultimi sono quelli che sono stati sviluppati e in qualche modo divulgati da Unrae. C'è stato ovviamente, è inutile a dirlo, un crollo del mercato. Ci sono però anche delle proposte operative che ha fatto Unrae, prima fra tutte quella dell'estensione dell'ecobonus e dell'adeguamento della fiscalità italiana a quella europea, soprattutto sul fronte delle auto aziendali. Cosa pensate di queste proposte? Sui dati di mercato purtroppo siamo in linea con quanto detto da Unrae, è correlato al mercato dei privati, delle flotte, dell'usato. Poi sull'usato sicuramente ci sarà una ripartenza prima degli altri mercati per il ridotto potere d'acquisto dei clienti. Le misure proposte da Unrai sono necessarie per risollevare il mercato, però allargando l'incentivo a una grande parte di esso e privilegiando, questo lo dice Renault, i veicoli 100% elettrici, in cui crediamo tantissimo, perché oggi è sicuramente la miglior soluzione per raggiungere i target CAFE imposti e salvaguardare l'ambiente. Dunque sull'elettrico noi crediamo sempre molto. E questo è un tema centrale, perché proprio sull'elettrico e sulla opportunità o meno di proseguire a tappe forzate, così come avevamo cominciato prima della crisi da coronavirus, ci sono opinioni diverse. È interessante anche questa posizione, la approfondiremo tra poco. Lei parlava anche di mercato dell'usato, che è un mercato su cui probabilmente bisognerà spingere nell'immediata ripresa dopo la fine del lockdown. Perché l'usato, per via dei prezzi accessibili, sappiamo che in questo momento la gente sta a casa, per cui il potere di acquisto si è ridotto, dunque penso che l'usato sarà prima a ripartire sicuramente. E per noi punteremo da una parte sull'usato, giustamente, ma anche su Dacia, che ricordo avere dei prezzi vicini a quelli dell'usato, ma con tanta qualità in più. Tutta la tecnologia della Renault arriva in Dacia, dai motori alle componentistiche, all'esperienza 4x4, dall'Alleanza fino al 100% elettrico, dove Renault è pioniere e leader. E qui è la grande notizia, che sull'elettrico c'è anche Dacia. Lo dicevamo anche nel corso di altre trasmissioni: in questo momento a soffrire davvero tanto ci sono i concessionari. La settimana scorsa avevamo ospite in trasmissione proprio il responsabile di Federauto, che ci raccontava di questa crisi profonda che sta toccando il mondo dei concessionari, soprattutto sul fronte della liquidità. Suppongo sia un problema che tocca da vicino anche Renault. Quali sono, secondo voi, le misure per risollevare questo comparto? I nostri concessionari sono chiusi da tanto tempo, dunque il business è praticamente inesistente. Ricordo solo che le officine sono disponibili per assicurare la mobilità, specialmente al personale medico. Basta andare sul sito per vedere la lista di tutti i nostri centri di assistenza. Anche il post vendita soffre, in questo campo lavorano bene le carrozzerie. Sui concessionari sono fondamentali i costi, perché hanno un basso margine e costi alti, dunque noi cerchiamo di spostare al massimo le spese, e cerchiamo anche di dare dei consigli per il discorso dell'affitto dei locali o anche delle spese, visto che abbiamo tanta expertise in Renault su questo. Le misure di partenza coinvolgeranno chiaramente dunque il cliente, i concessionari, i workshops, però io focalizzerei più per adesso il discorso cliente. In questo caso per i clienti noi faremo tante cose, faremo la disinfestazione di tutte le vetture per assicurare i piani in termini di sicurezza sanitaria, perché l'emergenza non è finita, durerà ancora tanti mesi. Li accompagneremo nel riavvio del loro veicolo dopo tanti mesi di inattività, estenderemo ove possibile i contratti di servizio, proporremo servizi di finanziamento per agevolare la loro capacità di spesa e tanto altro. Per noi il cliente diventa fondamentale, dunque anche i concessionari, certo, che vendono le vetture. Ecco, si parla molto di e-commerce in questo periodo. Proprio questa settimana i grossi players internazionali hanno ricominciato praticamente a pieno le loro attività dopo una fase che era quasi esclusivamente dedicata ai beni di prima necessità. Il mondo dell'auto ovviamente è un mondo che si affaccia all'e-commerce con grande difficoltà, perché onestamente poter acquistare un'auto online è davvero difficile, però qualcuno si sta credendo, e anche Renault sta investendo molto in questo segmento. In che modo? Durante questa emergenza è una novità, siamo tutti a casa, lei a casa, io sono a casa, forse lei in studio, non lo so. Comunque oggi più purtroppo che mai, noi siamo in studio, quindi stiamo lavorando come sempre. Che è come una seconda casa. Oggi più che mai dunque il nostro obiettivo è quello di essere vicino ai nostri clienti, e dunque quello che facciamo è accelerare la digitalizzazione per mettere a disposizione vari strumenti per massimizzare i punti di contatto tra la rete e i suoi clienti. Perché parlavamo di e-commerce, ma vendere una macchina online è più difficile che vendere un vaso o un bicchiere. Infatti le vendite online sono ancora basse, bisogna essere realisti. Il cliente italiano, per una spesa importante come un'auto, deve vedere, toccare il prodotto e soprattutto deve avere una faccia davanti in quale si può fidare. Ed è per questo che abbiamo appena lanciato, oltre chiaramente al Virtual Showroom e tante altre cose digitali, perché il nostro impegno digitale è iniziato un anno fa, abbiamo lanciato 15 progetti digitali, ma forse quello più interessante è quello che abbiamo lanciato, mi sembra il primo aprile, una video chat live tra clienti e venditori per iniziare le trattative, si possono fare preventivi online e fino ad arrivare all'acquisto. Dunque, con la video chat, il live chat, con la video live chat aumentiamo i contatti fisici a distanza, questo è importantissimo. E contestualmente a questo lancio, dove aumentiamo appunto i contatti fisici a distanza, visto anche il discorso del potere d'acquisto ridotto, nel mese di aprile noi abbiamo introdotto anche una nuova offerta che prevede la manutenzione ordinaria inclusa per tutte le vetture Renault e Dacia in caso di finanziamento con la nostra banca RSI. Dunque offriamo, l'obiettivo è proprio quello di offrire una customer journey sempre più rapida e semplice. Con il digitale ridurremo la burocrazia, ridurremo anche i contatti fisici con il concessionario, perché ricordo che l'emergenza non è ancora finita, ma aumenteremo i contatti digitali, accelerando i tempi di decisione e di servizio. Quindi uno strumento, mi sembra di capire, che sarà implementato anche quando questo periodo sarà finito e le concessionarie riapriranno i loro cancelli. Lei parlava di elettrico, il Salone di Ginevra, il Salone virtuale di Ginevra potremmo dire, voi avete ribadito questo concetto dell'offensiva elettrica e dell'elettrico come un punto di arrivo importante anche in questo momento. Quali sono i modelli su cui lavorerete di più da qui ai prossimi mesi, da qui alla fine dell'anno? Elettrico per il gruppo Renault, penso che l'hai capito, è sempre una grande priorità. La parola d'ordine per il 2020 era elettrificazione e rimane elettrificazione, perché penso che dopo il coronavirus sarà ancora più importante. E l'elettrificazione per il gruppo, non solo per Renault, perché abbiamo dunque anche Dacia, abbiamo la Twingo elettrica che offre 250 km di autonomia, che sarà il settimo modello 100% elettrico della gamma Renault 3. Abbiamo i modelli ibridi e-tech come Clio nella versione full hybrid e Captur e Megane nella versione plug-in. Ricordo che il plug-in è e-tech, appunto, ricorda e per elettrico, tech per l'esperienza in Formula 1. C'è tantissima tecnologia in questi due campi che viene riportato su questo nuovo sistema ibrido della Renault, che si guida come un elettrico e può fare 65 km in full electric in città. Fino a, e questa è la grandissima novità secondo noi, l'elettrificazione del marchio Dacia nel 2021. Abbiamo presentato il Dacia Sprint e la Show Car al Salone di Ginevra, anche se in digitale, 200 km di autonomia, è un SUV, un piccolo SUV, molto piccolo, molto sfizioso, e 200 km di autonomia è veramente un bel numero. Perché Dacia Sprint sarà rivoluzionario? Perché sarà il veicolo 100% elettrico più economico d'Europa. E io penso che questo sia importante, perché il gruppo Renault ha diminuito i freni all'acquisto dell'elettrico, che ricordo essere l'autonomia, in questo caso abbiamo proposto 395 km di zone. Adesso il prezzo, si parlava di prezzo molto più alto del termico, in questo caso avendo un Dacia elettrico il prezzo sarà molto più basso e si avvicinerà sempre di più al prezzo di un termico, essendo Dacia un marchio che offre il miglior prezzo, il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. E noi quindi aspettiamo di vedere questi modelli prima nei concessionari riaperti, ovviamente, e poi sulle strade italiane nei prossimi mesi, speriamo il più presto possibile. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Francesco Fontana Giusti, direttore della comunicazione di Renault. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. We'll be right back.